Siete entusiasti con me per questo nuovo anno? Quanti sono entusiasti per il 2018? Io sono convinto che questo sarà l'anno migliore della mia vita. Amen. Io sono convinto che questo sarà un anno di conquiste, di vittorie, di nuovi traguardi, che Dio ha il meglio davanti a me in questo nuovo anno. Amen. Amen. Lo puoi dire alla persona, anzi, ci alziamo in piedi. E visto che non fa caldissimo in questo luogo, ci diamo... Quanti hanno invidiato Karen quando è salita su questo palco per il peluche che c'ha addosso? Io guardavo il suo peluche e dicevo, quello voglio, non la giacchettina di pelle. Quindi riscaldiamoci un poco, abbraccia la persona che hai vicino e digli buon anno nuovo, buon 2018, che il Signore benedica questo nuovo anno. Buon anno anche in chi è in ultima fila. Vogliamo girarci e salutare le donne gravide, le donne che hanno sgravato, le donne che stanno lì e hanno portato crescita nella nostra chiesa. La nostra chiesa cresce grazie a persone come Regina. Grazie Regina, grazie Leo. Chi altro? Non vedo. Grazie a Simona. Simona, hai fatto un ottimo lavoro nel 2017. Hai fatto un ottimo lavoro, noi siamo fieri di te. Nessun uomo in questa sala potrebbe mai capire quello che hai passato. Siamo fieri di te. Letizia, ce la farai. Questa, ce la farai, siamo con te. Che bello essere in famiglia il 7 di gennaio 2018. Possiamo accomodarci? E io ho aspettative per questo nuovo anno, so che il Signore opererà. E sapete, la Bibbia dice che noi siamo chiamati, abbiamo un destino fruttuoso. Giovanni 15 ci ricorda che Dio ha prestabilito che noi portiamo frutto, anzi molto frutto. Gesù dice che in questo il Padre è glorificato. In questo il Padre è glorificato, che noi portiamo molto frutto. E noi in questo nuovo anno siamo chiamati e destinati ad essere persone, uomini, donne, ragazzi, ragazze, che portano frutto, che conquistano nuovi territori, che avanzano, che camminano, che corrono, che raggiungono in fede ogni traguardo che il Signore ha messo dinanzi a noi. Non ce la facciamo da soli, non ce la possiamo fare con i nostri sforzi, non ce la possiamo fare con la buona volontà, non ce la puoi fare perché il tuo pastore ti urla contro e ti incita e fa magari un bel discorso motivazionale, ce la puoi fare perché lo Spirito Santo è presente, è a tua disposizione e sarà con te per il corso di tutto questo nuovo anno. Amen. Amen, è meraviglioso quello che stiamo per vivere. Abbiamo già cominciato col botto. Gli Upside Down hanno fatto 2 giorni di letteralmente un ritiro, fra giochi, fra tempi di preghiera, lode, adorazione, insegnamenti. Infatti non c'è nessun Upside Down stamattina, proprio perché sono distrutti. Abbiamo per chi ha... Ah no, c'è qualcuno che sventola la sua mano, dice io ci sono e sono sveglia. E abbiamo messo un gonfiabile, per chi ha visto le foto, abbiamo messo in questa sala un gonfiabile, era una cosa straordinaria, ci siamo divertiti, buttati, abbiamo saltato, abbiamo lottato, era uno scivolo enorme, alto tanto quanto la balconata e io ho dolori dappertutto, ragazzi. Perché mi sono scatenato, però non ho più l'età, non sono più degli Upside Down. Cioè, se mi vedete fare dei movimenti strani, muovermi in una maniera un po' impacciata, è perché ci siamo distrutti. Ma che bello avere un gruppo di ragazzi scatenati, pazzi, pieni di energia, e non solo energia fisica, ma energia spirituale, per essere dei rivoluzionari che cambiano la storia della nostra nazione. Questo sono gli Upside Down. Quindi per te che sventoli dietro, sei l'unica upside down viva e reduce di questo dei live, il Signore vuole fare grandi cose attraverso di te, Giuliana. Amen? Amen. E poi abbiamo questo nuovo percorso per le coppie, perché crediamo nel vivere un matrimonio che è sano. Noi vogliamo fare la differenza in questa società dove la maggior parte delle coppie si separano, divorziano, si allontanano, non sanno vivere insieme. Noi sappiamo che attraverso la guida dello Spirito Santo e seguendo le istruzioni che la parola di Dio ci mostra, noi possiamo vivere dei matrimoni che sono un modello per la società e porta la società a chiedersi: ma voi come fate? Come fate a stare così bene insieme ed essere ancora innamorati dopo 10 anni, dopo 15 anni? Quanti anni siete sposati? 15 anni di matrimonio, non sono più innamorati che mai, mio fratello e Carly. Io sono stato con loro in questi giorni, erano bellissimi da vedere. Ed è bello vedere questo, si può vivere un matrimonio sano. E io sono entusiasta e sono grato a Dio per coppie di ministri come Saverio ed Enza, che si prendono carico di questo aspetto di Chiesa e investono il loro tempo e le loro energie per fare in modo che ogni coppia sia portata a maturità in Cristo per vivere un matrimonio sano. Amen. Gesù vuole che noi viviamo delle famiglie che siano sane, delle famiglie, dei nuclei familiari che funzionano, che sono sani. E quest'anno, a partire da questo mese, lo voglio dire, a partire da questo mese, noi come Chiesa faremo un passo di fede importante, che è quello di sostenere a tempo pieno Luigi Altamura, quale responsabile dei bambini nella nostra Chiesa, perché noi vogliamo investire nelle nuove generazioni. Perché crediamo che i bambini non siano delle persone da intrattenere, ma sono dei figli di Dio che hanno un potenziale da sprigionare. E vogliamo che loro vivano il pieno potenziale al quale Dio li sta chiamando. Abbiamo bisogno di ministri come Luigi che siano dedicati mattina, pomeriggio, sera, notte, mattina, pomeriggio, sera, notte, lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato, domenica e poi di nuovo lunedì, martedì. Questa è una parola profetica per Luigi, diciamo che la sta già vivendo. E grazie che ci sei, so che non stai neanche bene fisicamente. Possiamo fare un applauso a Dio e a Luigi anche per la scelta di vivere una vita che fa la differenza. E se noi possiamo avanzare, fare questi passi di fede, è perché tutti noi ci crediamo insieme. Chi sostiene Luigi Altamura, chi sostiene me, chi sostiene Luciana a tempo pieno per fare in modo che la Chiesa vada avanti, siamo noi con le nostre decime, con le nostre offerte, quindi siamo noi che insieme, attraverso la nostra generosità, attraverso il nostro investire nel Regno di Dio, portiamo la Chiesa a crescere, ad avanzare anno dopo anno e a conquistare nuovi territori. Questo è un nuovo anno per nuovi territori e nuove conquiste nel nome di Cristo Gesù. Ci piace? E tu individualmente cosa vivrai nel 2018? Posso farti questa domanda? Nel 2018 cosa vivrai? So che vivremo tutti le elezioni, che il Signore ci guidi in questo. È motivo di preghiera. Sono cose che vivremo, altre che non vivremo, tipo i mondiali. Quest'anno non vivremo i mondiali, avete saputo. Cosa vivrai nel 2018? Io voglio mettere in chiaro una cosa, che la Bibbia parla ampiamente del nostro futuro. La Bibbia parla continuamente di quello che ci sta davanti. Ed è così importante che noi cogliamo quella che è la visione del futuro che Dio ha per noi, per non rischiare di vivere un futuro che è disegnato da noi, modellato secondo i nostri desideri, i nostri gusti, mancando il vero obiettivo di vita che noi abbiamo su questa terra. Perché una vita piena è una vita vissuta per il proposito di Dio in Cristo. Quindi vogliamo vedere che cosa c'è scritto nella parola di Dio in Colossesi, al capitolo 3, dal versetto 1, e vi assicuro che mio fratello ed io non ci siamo messi d'accordo stamattina nel leggere i versi o in quello che avremmo condiviso, e quindi è straordinario vedere come lo Spirito Santo poi ci guida nella stessa direzione. E in Colossesi, al capitolo 3, dal versetto 1, noi leggiamo: se dunque siete stati risuscitati con Cristo. C'è qualcuno che è risorto? È qualcuno che, almeno papà l'ha capito che è risorto in Cristo. E questo è un buon segno. Meno male che abbiamo un pastore che ha capito che è risorto. C'è qualcuno che è risorto in questa sala? Noi siamo risorti, noi siamo passati dalla morte alla vita in Cristo Gesù. Noi non siamo più morti, noi non siamo degli zombie viventi. Noi siamo vivi in Cristo e ogni nostro peccato è perdonato in Lui. Quindi se dunque siete stati risuscitati con Cristo, dice la parola di Dio, cercate le cose di lassù, dove Cristo è seduto alla destra di Dio. Aspirate. Aspirate, dice la parola di Dio, aspirate, abbiate aspettativa, puntate verso, direzionatevi verso le cose di lassù, non a quelle che sono sulla terra, poiché voi moriste e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Quando Cristo, la vita nostra, sarà manifestato, allora anche voi sarete con Lui manifestati in gloria. Posso chiedervi di lasciare questo verso alla regia, qui proiettato? Vi rendete conto di che cosa sta dicendo la parola di Dio? La parola di Dio sta dicendo: il tuo futuro ha senso nel momento in cui tu non guardi in basso, ma guardi in alto. Nel momento in cui tu non ti fermi e non ti soffermi a guardare alle circostanze, alla tua piccola vita, ai tuoi piccoli problemi da risolvere, ma alzi lo sguardo e ti rendi conto che c'è un'eternità davanti a te. Il tuo presente e il tuo futuro, questo 2018, avrà senso solo se cogli pienamente quella che è la visione eterna delle cose. Perché la nostra vita terrena ha senso solo nel momento in cui è modellata in virtù di quello che ci aspetta per l'eternità. E noi abbiamo una vita eterna davanti. Mi piace che la prima domenica dell'anno io vi parli di morte, del ritorno di Cristo, della vita eterna. Qualcuno ha profetizzato che questo è l'anno del ritorno di Cristo. Anzi no, della fine del mondo, non del ritorno di Cristo. E ogni anno ne esce qualcuno, no? Quindi probabilmente sono 2018 anni che qualcuno per ogni nuovo anno prevede che c'è la fine del mondo. Ora, la Bibbia dice chiaramente che nessuno lo sa. Infatti l'andremo a leggere questo. Però una cosa è certa, accadrà. E se non accade nella tua vita, sarai tu a raggiungere Cristo, comunque. Tra non molto tempo. Tra un tempo relativamente breve che tu non conosci. Che io non conosco. Forse lo spero per te, se posso augurare una cosa del genere. Sarà fra 100 anni, forse fra 50, forse fra 20, forse fra 2, forse in questo anno. Eppure quello che deve animarci non è una paura e una preoccupazione per la morte, ma un entusiasmo per quella che è la vita eterna che ci aspetta. E in virtù della vita eterna noi dobbiamo vivere quello che ogni giorno che il Signore ci dà in questo nuovo anno. Amen. Sapete che Gesù parla di vita eterna più di chiunque altro nella Bibbia. E parla, quando parla di vita eterna, parla di inferno, di giudizio e di punizione di Dio. Lo fa più di chiunque altro. Nel 30% dei discorsi si stima che lui parli sempre di ciò che accadrà dopo il nostro soggiorno terreno. Nel 50%, pensate un po', la metà delle parabole che Gesù racconta sono tutte incentrate su quello che è il giudizio eterno, l'inferno, il paradiso. E voglio darvi una notizia e ricordarci il 7 di gennaio 2018 che l'inferno esiste, come anche esiste il paradiso. E la parola di Dio dice chiaramente che tutti noi siamo su una grande via, una grande strada che ci porta tutti quanti dritti all'inferno. Quello è il nostro destino, questo è quello che noi ci meritiamo. Questo è il giusto giudizio di Dio, e Dio è sì buono, è sì misericordioso, è sì pieno di grazia, ma è anche estremamente giusto. E io e tu siamo peccatori, siamo ribelli nei confronti suoi e non meritiamo di stare con lui per l'eternità. Quindi la strada che c'è posta davanti è una grande strada. Gesù la descrive come una larga via, una larga porta che ci conduce tutti quanti dritto all'inferno. Un posto di dolore e di sofferenza perenne. Un luogo dove per l'eternità noi soffriremo, noi patiremo per le conseguenze della nostra disubbidienza a Dio. Ma Cristo Gesù è venuto per fare un intervento nella storia dell'umanità e nella storia mia e tua, per dare una possibilità a tutte queste persone, a tutti noi che siamo direzionati verso l'inferno, per prendere una stradina che è stretta, per varcare una porta che è piccola e entrare nella possibilità di ereditare la vita eterna alla presenza perenne di Dio, dove c'è gioia continua, dove non c'è più lacrima, dove non c'è più sofferenza, dove non c'è più niente di ciò che noi viviamo su questa terra. Questa è la verità che la Bibbia ci mostra. Io voglio leggere una delle storie che Gesù racconta in Matteo, al capitolo 24, dal versetto 36, in modo tale che noi possiamo insieme allinearci a questa visione di eternità e modellare di conseguenza le nostre scelte per questo nuovo anno. Matteo capitolo 24, dal versetto 36 dice: ma quanto a quel giorno e a quell'ora nessuno li sa. Non fatevi ingannare, non facciamoci ingannare. Nessuno sa quando Gesù tornerà, nessuno sa quando ci sarà la fine di questo mondo, neppure gli angeli del cielo. Se qualcuno dice: ho avuto un'apparizione angelica, un angelo mi ha detto, un angelo mi ha mostrato, non è possibile, gli angeli non lo sanno, neppure il Figlio, ma il Padre solo sa. Come fu ai giorni di Noè, così sarà la venuta del Figlio dell'uomo. Infatti, come nei giorni prima del diluvio si mangiava e si beveva, si prendeva moglie e si andava a marito, fino al giorno in cui Noè entrò nell'arca e la gente non si accorse di nulla finché venne il diluvio che portò via tutti quanti, così avverrà alla venuta del Figlio dell'uomo. Allora due saranno nel campo, l'uno sarà preso e l'altro lasciato. Due donne macineranno al mulino, l'una sarà presa e l'altra lasciata. Vegliate dunque. Questo è l'appello, questo è l'incoraggiamento, questa è la call to action che Gesù ci chiama ad avere, il nostro predisporci all'azione è: vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno il vostro Signore verrà. Ma sappiate questo, che se il padrone di casa sapesse a quale ora della notte il ladro deve venire, veglierebbe e non lascerebbe scassinare la sua casa. Perciò anche voi siate pronti, perché nell'ora che non pensate il Figlio dell'uomo verrà. Qual è mai il servo fedele e prudente che il padrone ha costituito sui domestici per dare loro il vitto a suo tempo? Beato quel servo che il padrone arrivando troverà così occupato. Prestate attenzione a queste parole. Troverà così occupato. Io vi dico in verità che lo costituirà su tutti i suoi beni, ma se egli è un servo malvagio che dice in cuor suo: il mio padrone tarda a venire, e comincia a battere i suoi conservi, a mangiare e bere con gli ubriaconi, il padrone di quel servo verrà nel giorno che non se l'aspetta, nell'ora che non sa, e lo farà punire a colpi di flagello e gli assegnerà la sorte degli ipocriti. Lì sarà il pianto e lo stridor di denti. E lo so, sono versi che solitamente non leggiamo. né in chiesa né nei nostri tempi personali, possiamo essere sinceri. Questi sono quei tipici versi, no? Come un po' dicevo di quei salmi che non capisci, aspetti solo che Gianluca possa predicarti e farti capire meglio, no? Questo è uno di quei passaggi che dici, vabbè, non si capisce, non ha senso, forse non è per me, forse c'è di meglio che posso cercare nella Bibbia. Ma di fatto, voglio ricordarci, il 50% delle parabole di Gesù fanno un riferimento esplicito a quello che è la vita eterna. E quello che Gesù fa non è solo darci delle informazioni con queste parole, informazioni che riguardano il suo ritorno, come avverrà, come lui tornerà, ma quello che lui sta facendo è ci sta preparando a comprendere come noi dobbiamo vivere questo soggiorno terreno in aspettativa e in attesa del suo arrivo. Questo è quello che Dio vuole che noi comprendiamo stamattina. Come vivere questo nuovo anno nell'aspettativa del ritorno di Cristo? Come vivere il 2018 nella consapevolezza che questa parte di vita è la parte più breve che noi ci ritroviamo a vivere? C'è una parte molto più lunga di vita che ci ritroveremo a vivere dopo la morte, ed è per questo che la Bibbia parla ampiamente. Gesù è venuto non per darci un comodo e piacevole soggiorno terreno, ma per darci la possibilità di fare ricchezze e accumulare tesori e prepararci a un soggiorno celeste in eternità glorioso. Amen. Siete diventati un po' più silenziosi. Il punto è questo. Alla luce di queste parole, il punto è questo. Noi possiamo vivere dormendo o possiamo vivere vegliando. Il punto è questo. Noi possiamo vivere questo soggiorno terreno per accumulare tesori su questa terra, o possiamo vivere questo soggiorno terreno per accumulare tesori in eterno. Il punto è questo. Possiamo investire i nostri talenti, le nostre capacità, il nostro tempo che ci è dato da vivere su questa terra per soddisfare noi stessi, per fare ciò che piace a noi, per assecondare i nostri bisogni, o possiamo investire il nostro tempo, i talenti che Dio ci ha dato, le risorse, le ricchezze, per investirli per la sua gloria, affinché quando lui tornerà potrà dire: fedele e buono servitore, entra nella gioia del tuo padre. Ho fatto un esplicito riferimento alla parabola dei talenti. Il senso di questa storia e che possiamo vivere il soggiorno terreno in una maniera responsabile. Avete letto con me? Nella responsabilità di cibare, nutrire i domestici. Perché Dio ci ha affidato un compito, che è il compito sulla sua casa. E ci ha affidato la responsabilità di cibare, di curare e di alleviare i dolori degli altri. Oppure possiamo vivere il soggiorno terreno pensando ai nostri bisogni, sfruttando gli altri, battendo i conservi, ubriacandoci, cercando di evadere, e l'ubriachezza è qualcosa che noi viviamo anche quando non facciamo uso di alcol, evadere e cercare distrazioni. Perché? Perché non vogliamo vivere appieno la responsabilità che Cristo ci ha dato. Qual è la posizione che tu scegli di prendere? Stamattina. La domanda dovrebbe cambiare, non è tanto cosa vivrai nel 2018, ma la domanda giusta che noi ci possiamo porre stamattina è: per cosa vivrai nel 2018? Per cosa vivrai questo nuovo anno? per una causa che è più grande di te, per l'eternità, per cose che hanno un peso e hanno un valore eterno, o per cose che rimarranno qui, che sono limitate, che sono finite e che svaniranno in un attimo nel momento in cui tu passerai da questa vita alla vita successiva. Nel preparare questo messaggio mi sono fatto una domanda scomodissima, terribile, e ho sofferto tanto nel farla e darmi una risposta. Ed è per questo che ho piacere a rigirarla a voi. E la domanda è stata questa, credo che lo Spirito Santo abbia ispirato questa domanda. Mi sono chiesto che cosa ho fatto nella scorsa settimana che ha un peso e ha un valore eterno. E sapete una cosa? Purtroppo la mia risposta è stata molto, molto poco. Da cosa veniamo presi giornalmente? Come occupiamo la nostra mente, il nostro tempo, le nostre energie? È davvero per cose eterne. Se Cristo dovesse tornare oggi, ora, in questo istante, beh, se tornasse ora, almeno io me la cavo. Signore, torna ora. Ma se tornasse domani, nel nostro lunedì, al lavoro, a scuola, in famiglia, troverebbe dei servi così occupati, come abbiamo letto? O troverà dei servi infedeli, distratti e concentrati sui propri bisogni a discapito degli altri? Questa è una domanda scomoda che noi vogliamo farci in questo anno. Il Signore ha affidato a noi, non a me, alla nostra Chiesa, alla sua Chiesa, ha affidato un compito e una visione per questo nuovo anno, che è quello di ricercare e raggiungere, come non abbiamo mai fatto prima d'ora nella storia della nostra Chiesa, persone che sono perdute affinché esse possano ascoltare e ricevere Cristo Gesù. E Dio ci sta chiamando a farlo non con dei programmi e delle attività speciali. Sì, avremo dei programmi e delle attività speciali quest'anno. Abbiamo in mente di fare un grande evento in piazza, Piazza Sedile, qui a Modugno, affittando un grande service e portando quello che noi viviamo la domenica in piazza per farlo vedere a quante più persone possibile, perché quello che noi facciamo qui non è per noi, non è solamente per noi, ma per ogni persona che è qui in questa città. Faremo eventi come questi, ma il vero cambiamento di quest'anno, la vera visione di quest'anno, è il prenderci individualmente responsabilità di quello che il Signore ci ha affidato e dire sì, io voglio vivere una vita nella quale faccio cose che hanno un peso e una ripercussione eterna. Io perderò la faccia, io rischierò di essere preso in giro pur di testimoniare della mia vita salva per l'eternità, perché ci sono altre persone che hanno bisogno di uscire da quell'autostrada che li conduce all'inferno per entrare con me nella stretta via e ereditare la vita eterna in Cristo Gesù. Questa è la visione che noi abbiamo e lo vedremo ancora meglio nelle prossime domeniche. Siamo pronti a vivere un nuovo anno per una causa più grande. Siamo pronti a metterci in gioco e dire io voglio che la mia vita parli di Cristo Gesù e della mia consapevolezza che davanti a me c'è un'eternità da vivere. Amen? Vogliamo alzarci in piedi, io voglio pregare per noi. Sapete, c'è un animale che si chiama impala, è un antilope e si trova nella savana, nell'Africa. E questa antilope è una piccola gazzella, alta poco più di un metro, un po' più bassa di me, insomma. E questa antilope ha la particolarità di poter fare con un solo salto, di ricoprire una distanza, pensate un po', di 5 metri. Questo palco, se non ricordo male, è largo 8 metri. Questo animale ha la capacità di fare un salto che la porterebbe a ricoprire la maggior parte dello spazio che vedete qui davanti a me. E sapete a che altezza riesce ad arrivare questo minuscolo animale? Arriva a un'altezza di 3 metri. Sicuramente io con la mia mano non lo posso segnare. 3 metri è davvero alto, è davvero un salto molto molto alto. Ma se voi andate a cercare l'impala e la descrizione di come vive e poi vi andate a informare su come è tenuta in gabbia negli zoo, vi sorprenderete. Perché negli zoo questo animale che è capace di saltare per 5 metri, alto 3 metri, viene tenuta in prigione, in gabbia, da un piccolo muretto poco più alto di un metro e mezzo. Perché la particolarità di questo animale è che se non vede dove atterrerà e dove potrà posizionare i suoi piedi dopo il salto che farà, rimane immobile e sceglie di non saltare. E quindi rimane in gabbia, rimane ferma, rimane imprigionata in uno zoo e si fa fotografare dai turisti, quando il suo destino sarebbe quello di saltare, andare via libera, correre. Il suo destino sarebbero le praterie, sarebbero le pianure dell'Africa. E quando ho letto di questa cosa ho pensato alla mia vita, alle nostre vite. Quanto troppo spesso per quei piccoli muri ci facciamo fermare dal destino di vita che Dio ha per noi. Quanto concentrati dalla difficoltà del momento, giorno per giorno, il diavolo lo sa ed è per questo che ogni nuovo giorno ci presenta una nuova sfida, un nuovo impedimento, perché sa che purtroppo rimaniamo immobilizzati da quella che è una piccola circostanza. Perché? Perché non abbiamo il coraggio di guardare oltre, guardare all'infinito, guardare a quel Dio eterno che è capace di farci saltare oltre, farci conquistare in fede territori che ci aspettano perché Lui ci ha destinati a quei territori. Qual è il problema, qual è la circostanza che sta bloccando la tua vista e ti sta portando ad essere immobile e a vivere una vita che è comoda, una vita nella quale accetti i difetti del tuo carattere, i limiti della tua personalità per non andare oltre? No, io non posso evangelizzare, io non posso parlare ai miei colleghi perché io non sono un evangelista, perché io non so parlare, perché nel momento in cui parlo le persone scappano via. No, io non posso credere in fede, imporre le mani su una persona che è malata e dichiarare guarigione su quella persona perché l'ho fatto altre volte e non è mai successo niente. No, io non posso fare questo viaggio missionario, io non posso sfidarmi ad uscire fuori da quella che è la mia condizione perché ho un lavoro, una famiglia, ho dei bisogni, ho delle priorità. No, io non posso e gli anni avanzano, il tempo va avanti e noi rimaniamo bloccati dietro quello che è un piccolo recinto che il diavolo cerca di rendere sempre più stretto per farci vivere una vita miserabile. Ferma. Gesù stamattina ti sta chiamando a riconoscere che in te c'è il potenziale attraverso lo Spirito Santo di fare quel salto e di entrare in quei nuovi territori, perché per fede tu puoi ogni cosa, per fede tu puoi attraverso lo Spirito Santo andare oltre ogni limite che hai avuto finora e che ti ha impedito di conquistare ogni territorio che in passato hai avuto percezione che fosse la tua eredità da parte di Cristo e forse nel quale hai smesso di credere. Vogliamo chiudere i nostri occhi, concentrarci su Gesù. Come ci veniva detto prima, volgere il nostro sguardo verso di Lui. E se questa mattina tu riconosci il bisogno che hai di vivere un nuovo anno, che non è una ripetizione dell'anno precedente o degli anni precedenti, ma è davvero un nuovo tempo nel quale entri in territori nuovi e non ti fai bloccare, ma in fede conquisti quello che il Signore ha per te. La salvezza dei tuoi parenti, la salvezza dei tuoi colleghi di lavoro, la salvezza dei tuoi vicini di casa, la salvezza dei tuoi amici, i miracoli, il miracoloso, persone che guariscono attorno a te. Se sai che questo è quello che il Signore ti sta chiamando a vivere, allora in questo momento io ti chiedo di alzare le tue mani e con te voglio pregare questa preghiera. Insieme vogliamo pregare una preghiera nella quale chiediamo allo Spirito Santo di potenziarci per un nuovo anno, un anno come non l'abbiamo mai visto. Padre, noi ti ringraziamo perché ci vedi e Padre ti ringraziamo per la tua parola e Gesù Cristo, noi ti siamo grati per come tu hai insegnato e hai parlato e non solo hai fatto questo, hai testimoniato con la tua vita vivente che è possibile vivere per l'eternità, che è possibile vivere per andando oltre quello che il recinto delle circostanze, è possibile vivere e soffrire per una causa maggiore, più gloriosa, che ha un peso e una ripercussione eterna. Gesù, tu ci hai dato questo esempio, tu hai insegnato queste parole e noi siamo il tuo popolo, la tua chiesa, qui stamattina riunita per dirti, Gesù, che vogliamo seguirti, che vogliamo andare oltre i nostri limiti, che vogliamo andare oltre quelle circostanze, che non vogliamo più mantenere lo sguardo basso, ma vogliamo alzare lo sguardo verso quelle cose eterne alle quali tu ci stai chiamando. Padre, io prego per ogni mio fratello e mia sorella che in questo momento sta prendendo una decisione e sta facendo proprio questo messaggio, perché tu hai voluto comunicare loro questo messaggio. Io ti prego che tu possa fortificarci e ricordarci queste parole, questo insegnamento domani. E poi durante la settimana e poi per questo mese, per l'intero anno, e che noi possiamo prendere giorno dopo giorno, una persona per volta, una conquista per volta, un obiettivo per volta, ogni territorio che tu hai prestabilito per noi nel nome di Cristo Gesù. Se hai fede in questa preghiera, ripeti con me Amen. Amen. Alleluia. Quale momento migliore per celebrare la cena del Signore e ricordarci che Lui ha vissuto una vita per l'eternità, per cose che hanno un peso eterno. Lui ha sofferto, Lui si è sacrificato, Lui si è lasciato umiliare per la salvezza mia e tua. E stamattina, guardando a quel pane, guardando a quel vino, possiamo ricordare il suo corpo martoriato, appeso su quella croce. È stato il sacrificio necessario per farci uscire da quella strada larga ed entrare in quella porta stretta che ci conduce a vita eterna. Nel venire avanti, nel partecipare alla cena del Signore, mentre mangi quel pane, mentre bevi quel vino, fai una scelta stamattina. È la scelta che l'Apostolo Paolo in più battute ripete. Per me il vivere è Cristo e il morire è guadagno. Non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. E la vita che ora ho davanti la vivo per il Figlio di Dio, per la gloria del Padre. Fai questa decisione e arrendi ogni altra cosa. Arrendi quello che è il muretto che vedi attorno a te, arrendi le circostanze, arrendi gli impedimenti, arrendi ogni cosa. Sono convinto che Dio abbasserà muretti stamattina e ci farà conquistare territori. Grazie per il tuo sacrificio, Gesù Cristo. Noi lo onoriamo e lo celebriamo stamattina come famiglia, prendendo decisioni con te di arrendere la nostra vita e rimetterla nelle tue mani. Amen. We'll be right back.